the face of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Barack, Barack, tesoro, svegliati. Hai vinto il Nobel per la pace. No, non sono i microfoni di Radio 24 opportunamente piazzati sotto il lettone nella camera presidenziale della Casa Bianca, era solo il modo di Buongiorno America, di festeggiare questo annuncio sorprendente, questo scoop mediatico che così ha travolto il mondo. Veramente è raro vedere tanta perplessità, tanta sorpresa e tanti editoriali non scritti da scrivere in 5 minuti come in questo caso. Barack Obama è stato tributato il Nobel per la pace un'oretta e mezza, un paio d'ore fa, e tutti ci si è cominciati a interrogare attorno alla opportunità, al senso, al messaggio, al valore, al disvalore, insomma attorno in effetti alla personalità di quest'uomo che sta volente o nolente cambiando faccia alla politica mondiale. Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama. Io mi immagino il signore norvegese, il molto molto accademico signore norvegese con il suo inglese norvegese, come assaporava, no, il momento della sorpresa. Già c'è questa goccia cinese di Nobel, di un Nobel al giorno che leva il medico di torno, ma poi c'è anche il fatto, insomma, che mettersi lì e dare fra i 170, pare che fossero i candidati, le nomination, anche se sono opportunamente segretate, e chissà quanti attivisti, quante persone con all'attivo un curriculum eccellente per l'annata in corso, insomma attendevano questa comunicazione con ansia, e invece il nome pronunciato è stato quello di Barack Obama. La sostanza della questione può essere riassunta in una parola, in quella famosa parola che, tutto sommato, visto che il festeggiato è lui, la facciamo dire in prima persona al presidente. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? Vogliamo essere parte di una politica del cinismo o vogliamo essere parte di una politica di speranza? La parola chiave, la parola che è stata premiata, questo premio, come è stato detto in anticipo, questo premio sulla intenzione è racchiuso in quella parola che Barack Obama ha pronunciato certamente per i suoi elettori americani, il primo bersaglio delle proprie comunicazioni, soprattutto quando era in campagna elettorale, ma al tempo stesso anche pronunciata per il mondo che ha imparato a conoscerlo, in buona parte ad apprezzarlo, in ogni caso ad ascoltare il suo messaggio di cambiamento, un messaggio di un nuovo indirizzo, di una nuova presenza americana nel mondo che cambiava il senso di quello che era accaduto negli anni precedenti, non soffermandosi più di tanto a criticare gli andamenti della America dei primi 8 anni del millennio, ma pensando soprattutto a risistemare l'America in una posizione, in un punto diverso, in un punto dove soprattutto è la parola, è il linguaggio ad avere la meglio sulle azioni, no? Un'America più di parola, più di diplomazia che di azioni, per esempio di azioni di guerra, naturalmente in una situazione estremamente compromessa come quella attuale. Le aree di crisi le conosciamo, ne discutiamo tutti i giorni. I procedimenti di pace, le lentezze che le contraddistinguono sono i campi nei quali Barack Obama deve dispiegare la propria parola di speranza, come sta facendo, sta provando a fare anche nella questione del nucleare, e sta provando a fare soprattutto nella atmosfera generale dei rapporti internazionali, laddove al sospetto, alla inimicizia, a uno sguardo di odio in quanto di diversità, sta provando a sostituire qualcos'altro, qualcosa che ha a che fare con la tolleranza e il dialogo, in modo molto scandinavo I professori del Nobel hanno inteso premiare questo atteggiamento di Barack Obama soprattutto per l'invito, per la direzione in cui invita a guardare, per l'invito a provare a percorrere queste strade anziché quelle che fin qui non hanno condotto a risultati straordinari. E ci sono naturalmente ogni genere di reazioni alla notizia del Nobel per la pace a Barack Obama, a cominciare da quella di Gibbs, il suo portavoce, che si è limitato a dire wow, e poi naturalmente parlerà presto Barack Obama, secondo me, con Michelle, che noi abbiamo immaginato l'abbia svegliato stamattina così con il caffè e la notizia. Vediamo un po' di reazioni. Una reazione che ci ha fatto, come dire, ci ha colpito per la necessità di esistere anche in questo momento, è quella che arriva da parte dei comunicatori talebani dell'Afghanistan, che avrebbero, secondo un portavoce degli insorti, condannato l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Barack Obama. Michael Gorbachev, premio Nobel per la pace del 1990, ha detto: sono contento, quello che Obama ha fatto finora nella sua presidenza è stato quello di infondere appunto speranza. Torna sul tema chiave. E la reazione del New York Times è stata di stunning surprise, di stordente sorpresa, una sorpresa impressionante. Il Washington Post sul suo sito scrive: l'annuncio a meno di 9 mesi dall'insediamento di Obama suscita immediatamente a Oslo questioni tra i giornalisti, che si sono chiesti se il comitato Nobel non abbia agito prematuramente premiando un leader che ha un'agenda ambiziosa ma ancora tutta da realizzare. Ma insomma è chiaro che l'intenzione in questa occasione è stata quella di incoraggiare una direzione, un andamento in una certa direzione. Vediamo altre reazioni che spuntano ora. L'assegnazione del Nobel per la pace a Barack Obama, secondo Lech Wałęsa, ex presidente polacco, è arrivata troppo presto. Obama, così presto, troppo presto, avrebbe detto Wałęsa. Invece Sarkozy ha rilasciato una dichiarazione di grande empatia. Insomma, vogliamo trarre una prima conclusione da questa notizia: il mondo, volente o nolente, continua a rincorrere Barack Obama. Stai benissimo, adesso non te li fai più stirare. Cosa? I capelli. Oh, no, non più. Ti stanno bene. Grazie. Ecco, lei ha rincorso invece Barack Obama in tempi non sospetti, e oggi, che è venerdì e che è il giorno nel quale, oggi un'edizione un po' così, un po' modificata da questa grande notizia, ma il giorno nel quale di solito ci occupiamo di show business americana, era ampiamente in scaletta, una scaletta che abbiamo voluto non a caso tutta femminile nella puntata di oggi, per sottolineare alcuni grandi, diversi talenti femminili che si stanno esprimendo nello show business, in questo caso d'America. Quello di Barbara Streisand ci sembra assolutamente da sottolineare in questi giorni, non tanto per quelle simpatie estremamente progressiste, anzi comuniste, che incarnava in Come eravamo, no? Al fianco di Robert Redford, il film di cui abbiamo sentito le battute della scena, della struggente scena finale, i pianti che ci sono fatti, ma perché Barbara alla dolce età di 67 anni ha pubblicato un disco ed è andata dritta, sparata in testa alle classifiche americane. Una performance eccezionale per un album che si chiama Love is the Answer, in cui in un certo senso ridà voce, ridà vigore a quel suono jazz dal quale a lungo si era distaccata, con la produzione tra l'altro di Diane Krall, con tanti standard rieseguiti in modo molto soffice, molto consapevole per la bravura che la contraddistingue, che è stato molto comprato dagli americani, pare soprattutto non nei negozi di dischi ma, pensate un po', soprattutto da Starbucks, no? Dove gli impiegati stanno in fila, aspettano di ritirare il cappuccino. Sono i dischi in vendita, molto selezionati per quel tipo di pubblico borghese, middle class. Hanno visto il disco di Barbara Streisand e, con la voglia di tornare a sognare che quel presidente là gli sta evidentemente infondendo, l'hanno tutti in gruppo comprato e l'hanno mandato al primo posto della classifica. Make someone happy, make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one man your everything to. Buongiorno America. Okay, so anyway, Sarah Palin has tips now for writing a book. Here we go, number 10. Close curtains so you don't get distracted by Russia, number 9. Sarah Palin, se vuoi scrivere un libro devi chiudere le tapparelle, se no vedi la Russia dall'altra parte del mare e ti distrai. Questi sono i consigli estremamente maligni, perché la odia, che David Letterman indirizza a Sarah Palin nel momento in cui la creatività, no, da scrittrice di Sarah Palin stava prendendo forma, si stava concretizzando, ma vedremo come... non è che Sarah forse ne avesse tanto bisogno di questi consigli, qualche consiglio invece andrebbe dato magari a David Letterman, che continua a nuotare nelle acque perigliose del suo scandalo adulterino. Oggi, anche oggi, abbiamo una novità di giornata, perché una collega di Joe Alderman, ovvero l'uomo che avrebbe ricattato per 2 milioni di dollari David Letterman, dicendo che se non lo pagava avrebbe raccontato al mondo del suo tradimento, questa collega racconta che questo Joe, che era un produttore, un producer televisivo proprio della CBS, la stessa rete di David Letterman, avrebbe preso l'idea in sostanza da un servizio che aveva da poco realizzato, un servizio che aveva fatto nello stato di Washington, vicino Seattle, dove aveva seguito la storia di un uomo che era stato ricattato per avere indietro le ceneri, se non sbaglio, di suo fratello. La cosa l'aveva molto impressionato, poi ha pensato, come dire, di dare una forma propria, di entrare in affari anche lui, e per ora gli è andata malino. Invece sta andando benissimo a Sarah Palin, che ha anticipato estremamente in questo strano percorso, di cui un'altra cosa su cui gli editorialisti americani mica si orientano granché di questi tempi, come sul inatteso Nobel a Barack Obama. Lei ha scritto questo libro che si chiama Going Rogue, An American Life, andando in modo selvaggio, andando in modo anche un po' farabutto, una parola che piace molto in Italia in questo momento, una vita americana. Questa è la parte forte del titolo, perché se c'è un simbolo di un'America originale è certamente Sarah Palin, che tanto, anche per questo motivo, piace a una certa area di conservatori, individualisti americani. Ha anticipato l'uscita del suo libro a questi giorni, pochi mesi dopo le sue dimissioni da governatore dell'Alaska. Non correrà per nessuna delle varie cose nel 2010 in palio nella politica americana, perché ormai, secondo me, è piuttosto chiaro perché far finta di niente. Guarda al 2012, spera di incarnare la grande speranza repubblicana che si possa eventualmente contrapporre a Barack Obama nella corsa per quelle presidenziali. Di sicuro un segnale interessante e incoraggiante le arriva dalle prenotazioni per il suo libro, che stanno sbaragliando letteralmente il mercato. Pensate che ha fatto più prenotazioni il libro di Sarah Palin che quello di Dan Brown, che se andate su un aereo americano lo vedete in mano letteralmente a tutti i pendolari, i commuter, c'hanno tutti Dan Brown. Ebbene, adesso avranno tutti Sarah Palin e la ricostruzione della sua carriera politica, con tanti naturalmente indiscrezioni. Letterman la prende in giro, ma lei continua a marciare, anche perché non è che di questi tempi il Partito Repubblicano stia esprimendo, come dire, messaggi più chiari dal punto di vista della individuazione della personalità giusta. Comunque il 17 novembre ufficialmente nelle librerie, si sa che da Walmart, da Amazon, il libro è venduto con grandi sconti, anzi qualcuno ha detto è per quello che vende tanto, ma insomma, per quanto Letterman la prenda in giro, bisogna dare atto a Sarah Palin di saper comunicare, di saper attrarre l'attenzione del pubblico, e in una elezione che minaccia di essere più post-politica che mai, come quella del 2012, datemi retta, questo conta parecchio. Continuiamo a parlare di queste signore a cui vogliamo dedicare tutto lo spazio che naturalmente Barack Obama ci lascia libero. Abbiamo fatto due conti: se oggi fosse vivo, Kurt Cobain avrebbe 42 anni, sua figlia Frances Bean ne ha 17-18, se guardate le sue foto su internet, magari siete stati vecchi fan dei Nirvana, vi prende un colpo, ve lo dico subito. Courtney Love ne ha 45 di anni, la più grande di Kurt, e continua a modo suo, molto a modo suo, ma continua a essere una protagonista dello show business americano. È una sentite questi suoni ormai, no, in un certo senso vellutati, anche questi un po' post sbronza, un po' post follia, un po' post riabilitazione, tutte parole che fanno parte purtroppo delle cronache che riguardano Courtney Love negli ultimi anni. È entrata e uscita da cliniche di disintossicazione, è ingrassata in modo spaventoso e poi improvvisamente dimagritissima. Sul Times di Londra, cioè su Sunday Times, è uscita una sua fotografia, credo di una intervista, sembra magrissima, anoressica, sicuramente è ricorsa a un sacco di plastica, di chirurgia estetica. Però ha fatto un disco che ancora non è uscito, ma sta per uscire, di cui questi suoni che sentite in sottofondo sono un po' un antipasto. Si chiama Nobody's Daughter, titolo indicativo per una vecchia punk come lei, no? La figlia di nessuno, e racconta storie scritte peraltro proprio dentro, uscendo, entrando da queste cliniche di disintossicazione. Nelle interviste racconta di come abbia trovato nel buddismo, beata lei, e nella voglia di comporre ancora canzoni con una chitarra che a malapena riusciva a strimpellare, il modo per tenere il cervello in ordine, quel tanto che potesse bastare per ripresentarsi poi al pubblico. Le anticipazioni sono molto positive. Alan McGee, uno dei più grandi cervelloni del pop contemporaneo, il boss della Poptones, una grande etichetta, dice: non l'ho mai vista stare bene di testa e di corpo come in questi giorni. E le canzoni che ha scritto io le posso definire in un modo solo: sono dei nuovi classici. Questi sono 15 anni che Kurt Cobain mise fine nella sua villona impropria di Seattle alla propria vita. E, come dire, il tempo passa. Storia di show business a Buongiorno America, come ogni venerdì. Io sono Stefano Pistolini in redazione, e devo dire anche in una indimenticabile interpretazione che avete sentito all'inizio del programma. Possiamo risentirla? Adesso la risentiamo. Comunque Gloria Guerrera, alias Michelle, via. Barack, tesoro, svegliati. Hai vinto il Nobel per la pace. Sono grandi momenti. Barack Obama, premio Nobel. In regia Valerio Rocchetti a Roma, Carmelo Auricella a Milano. Email buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook, redazione Jefferson 3. La replica poco dopo mezzanotte. Ci sentiamo lunedì all'1:30 qui su Radio 24. Un ottimo weekend a tutti.